Bonjour. Ebbè, non parli. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10. CQ canale 10. Hola. Un caffettino, possiamo andare a prendere due fesserie, non ne sono rientrato. C'è un vento fresco, mi sto benissimo oggi. Lo so. Vabbè, che ci vuoi va, che ci vuoi va. Tanto paghi su chi devo va io. In prigione sono finito, boh. Se non vi ci voglio va io. Fare niente, assolutamente. L'erba tagliata, il prato rasato, la casetta a posto. Niente, non devo fare niente. Nulla. Già ne ho cose da fare, ma non faccio nulla a giocare. Va bene mela, e chi vai? Charlie. Che adesso? Le 11:30 quasi. Quasi le 11:30 sono. 11:28, 29, vabbè 11:30. KK. Il segnale è molto più basso rispetto al K, no? Più o meno siamo lì, no? Siamo lì. Siamo lì a chi interroga, 80 watt. Questo Galaxy c'ha 80 watt e non vedi nulla. Pare normale, ma non è normale. E infatti. Guarda così che l'interruttore è abbassato della potenza, così com'è? È abbassata di molto pure. No, ma che... Io lo so che è abbassata di molto, già lo so. Sono 100 watt pieni, sono tanti. Da 8 watt a 100 watt sono tanti. E te credo che la differenza si nota. Anche la radio aumenta. Quello non ci ho fatto caso, prova con uno e con l'altro passaggio. Guarda, così è con tutta la potenza della radio. Senti la radio, così come la radio, adesso mollo. Mentre invece così è con 8 watt, dimmi se la radio è più bassa. Sì, sì, abbassa anche la radio, aumenta la radio quando aumenti la situazione. Così è l'accordo giusto, è perfetto il lavoro, così deve essere. Le stazionarie rimangono uguali, quando l'impianto è fatto bene, la radio è stata fatta tecnicamente bene, capito? Tutto all'interno, tutto, cavi non ce n'è, fuori, nulla, spezzoni, alimentato la scheda dell'amplificatore. I due finali supplementari sono alimentati dall'alimentatore interno, capito? Quindi lavora bene, vedi, non si sente nulla, la ventola che senti è l'alimentatore che c'è in terra. Ma non c'è nessuno, manco negli altri posti, tutto vuoto vuol dire. Non c'è propagazione, non c'è niente. Non so, qui in 10 metri poco fa, in 40, sì. Soliti QSO domenicali, ma niente di particolare. Ma cosa vuoi che ti dica? E va bene lo stesso. Non si vive solo di radio. Ah, questo è poco ma sicuro. Ma ci va gente, non va gente, me la futta sempre. Non è che me la prendo più di tanto, ma intanto ho capito. Intanto Natali non riesco a trovare il cavetto della Dunis. Del 508, ma dimmi tu cazzo, non riesco a capire che fine ho fatto. Ho controllato tutti i cassetti, ho controllato tutto. Niente da fare. Anda vecchia, io mi sposto che devo fare cosa, là. Ci sentiamo alle prossime. È copiato. Così è, c'è niente da fare. Chi è qualcuno, ma ne rimane qualcuno, ma ne... regia, c'entra a fare, no? Secondo me andiamo.